Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Rivedi le vette che hai scalato, fermo in fila al supermercato. Ma adesso ti è scesa la catena e la bici è canto di sirena. Buon pomeriggio, buona domenica e dunque un canto di sirena, un richiamo irresistibile la bici per chi l'ama, per chi in questo momento la rimpiange o la vorrebbe inforcare, ma insomma la poesia lenisce in qualche modo la sofferenza di noi ciclisti in questo momento di quarantena. E questa era una quartina di Alessandro Ricci, giornalista, ciclopoeta e ideatore del progetto Borracci di Poesia, che abbiamo raggiunto al telefono. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio Alessandra, grazie. Anzi, su Messenger, diciamola tutta, vabbè. Comunque, Alessandro, tu hai alle spalle tantissime quartine che raccontano avventure, storie, disavventure dei ciclisti sulla bici. Adesso ti stai cimentando con questa nuova collezione sulla quarantena. Ma come è nato innanzitutto questo progetto Borracci di Poesia e cos'è? Allora, Borracci di Poesia è un progetto che è nato oramai un bel po' di anni fa per gioco e per divertimento. E va da sé, è un progetto che unisce mie due grandi passioni, che sono per l'appunto la bicicletta e la poesia. Quindi vivendo costantemente in sella, o per lavoro, per spostamenti di lavoro, o per divertimento o per viaggio, mentre pedalavo mi sono accorto che piano piano queste rime cominciavano ad accompagnarmi e a scandire un po' il colpo di pedale. Quindi poi a un certo punto sono sceso dalla bicicletta, mi sono seduto alla scrivania e ho cominciato a mettere giù queste rime, che nello specifico sono delle quartine che io dico più o meno regolari, un po' come la bicicletta e come il pedalare del resto, e sono per l'appunto rime che raccontano un po' avventure e soprattutto disavventure del ciclista, con particolare riferimento al ciclista urbano. Quindi sono micro storie urbane e micro storie di viaggi in bicicletta. E adesso insomma non potevi che continuare, la penna continua a scrivere, però insomma siamo in quarantena e quindi hai già prodotto parecchie quartine. Sì, ne sto pubblicando una al giorno, prendendo per l'appunto ispirazione dal pedalare sui rulli, perché per come dire confermare il mio fisico da poeta, come dicono i miei amici e come mi prendono in giro e come scherzano, ho pensato bene anch'io di salire sui rulli, come tante altre persone stanno facendo in Italia, e anche in maniera molto da professionisti. Vedo dei video con dei rulli pazzeschi che costano migliaia di euro. Io ne ho uno abbastanza sgarrupato che traballa anche mentre pedalo, e forse anche per questo, mentre pedalo anche sui rulli, continuano a venire le biciclette, perché come dico in una rima sono più sognatore che atleta, e quindi magari sono più concentrato nella ricerca della rima che della performance atletica. Perché a te proprio il pedale si fa nascere i pensieri, no? Sì, assolutamente. Diciamo che la bicicletta è un esercizio di baldanza, come dico io. E quindi è bello, mentre si sta in sella, mentre si sta in bicicletta, accompagnare la pedalata con delle rime, e viceversa, le rime che accompagnano la pedalata. Bene, grazie Alessandro. Allora tu ci accompagnerai con queste quartine, insomma, per tutto il periodo di quarantena. Non sappiamo quanto durerà, quindi ti devi dare da fare, continua a pedalare sui rulli, così ti fa venire belle ispirazioni, ok? Certo, grazie. Bene, grazie mille, buon pomeriggio e buona domenica. Grazie a voi, buon pomeriggio. Come da protocollo, io sto a casa. Cerco tracce con satelliti NASA. Traccio percorsi su tutto il pianeta. Oggi più sognatore che atleta. Insomma, non saremo atleti, ma qualcosa possiamo comunque fare per mantenerci in forma anche dentro le mura domestiche. Come sappiamo, in teoria è ancora possibile usare la bici, oltre che per recarsi al lavoro o fare la spesa, anche per svolgere attività motoria all'aperto in prossimità di casa. Così è scritto nei provvedimenti del governo, ma di fatto è inutilizzabile e non più utilizzata, insomma. E allora sentiamo che cosa possiamo fare dentro casa per non perdere la forma fisica, che comunque è importante mantenere anche per aumentare le nostre nostre difese immunitarie. Omar Gatti, direttore della formazione di Bike Italia, buon pomeriggio Omar. Ciao, grazie ancora per l'invito. E allora Omar, è importante, no? Non mollare, continuare a fare movimento anche dentro casa. Assolutamente, non dobbiamo dimenticare e mettere da parte l'attività fisica, soprattutto se era una nostra abitudine quotidiana, oppure ancora più importante se non lo era. Per cui anche se non possiamo più uscire a pedalare, non possiamo andare a correre, non possiamo andare al parco a camminare, possiamo fare comunque tantissime attività in casa per mantenere elevato sia la nostra, il nostro sistema immunitario, ma soprattutto anche tutto il resto, perché la sedentarietà forzata, come in questo caso, produce anche un calo del tono muscolare, una diminuzione della densità ossea, una riduzione anche della mobilità articolare, quindi un sacco di ricadute negative sul nostro organismo che ci renderanno anche più difficile quando sarà da ripartire. E allora Omar, qualche consiglio invece più specifico per i ciclisti? Assolutamente, allora la prima cosa che voglio dire, questo perché io seguo moltissime persone su Strava, che conoscerai, quindi che è questo social dove ognuno può postare i propri allenamenti, per i ciclisti che hanno i rulli è non esagerare. Io vedo continuamente gente che fa 2-3 ore di rulli tutti i giorni, questo è il miglior modo per farsi del male. Perché è stato visto innanzitutto che l'attività fisica di endurance, protratta oltre le 2 ore, comunque l'ora e mezza, ha una forte ricaduta negativa sul sistema immunitario, soprattutto se non diamo al nostro corpo il tempo per recuperare. Fare delle sedute lunghe tutti i giorni è la cosa peggiore che possiamo fare in questo momento, così come iscriversi alle varie app che possiamo utilizzare e usare dei sistemi di allenamento che non sono pensati per la nostra capacità fisica. Il segreto è un allenamento più variato possibile. Assolutamente. Il nostro fisico ha 3 capacità motorie fondamentali, che sono la resistenza, la forza e la velocità. La resistenza la alleniamo con i rulli, quindi tutta la capacità aerobica, tutta la capacità cardiovascolare. Ma non dobbiamo dimenticarci che il nostro corpo ha bisogno anche di allenare le capacità motorie della forza, quindi fare esercizi a corpo libero. Una delle cose più importanti che possiamo fare è allenare quello che è il core, ovvero, lo dico per farmi capire, gli addominali, che poi addominali non sono, però tutta quella parte del tronco che serve per stabilizzare e per ridurre l'incidenza, per esempio, del mal di schiena, che con la sedentarietà tende ad acuirsi. Altra cosa, dobbiamo allenare la mobilità articolare. La pedalata è un gesto che tende ad accorciare molto i muscoli, perché lavora sempre in un range determinato. Dobbiamo poi metterci per terra su un tappetino e ricordare al nostro corpo che i muscoli e le articolazioni sono fatti per fare gesti più complessi della semplice pedalata, e quindi fare esercizi di stretching, fare esercizi dolci di mobilità articolare. Tutte queste cose non sono in realtà dei surrogati della pedalata, ma sono assolutamente complementari e un ciclista dovrebbe farli sempre. Omar, raccontaci un po' qual è il tuo allenamento tipo, come ti mantieni in forma, insomma, qual è la tua giornata? Ti racconto la mia giornata di clausura. Sì. Io mi alzo, ho deciso di non modificare la sveglia per rimanere abituato, io mi alzavo sempre alle 6:30, mi alzo comunque alle 6:30 del mattino. E cosa faccio? Faccio 45 minuti di allenamento della forza la mattina, dove vado soprattutto ad allenare quelli che sono i grandi gruppi muscolari, quindi faccio allenamento del core, faccio un po' di sollevamento di pesi, io uso i kettlebell, per me sono 45 minuti. Poi vabbè, lavoro, perché comunque ho la possibilità di fare smart working, poi ho a casa il bimbo, quindi quello è un lavoro doppio. Poi il pomeriggio faccio dei lavori un po' più aerobici, porto giù il bambino in cortile, lui corrazza con la bici, col monopattino, io o salto la corda, che è un'ottima attività complementare. E quanti salti fai sulla corda? Allora, il mio record è 1500 di fila, quindi io di solito faccio dai 30 ai 45 minuti e li attacco anche della pliometria. Pliometria sono dei salti come gli squat jump, salti su un muretto, eccetera. Questo per mantenere elevata la capacità, la forza delle gambe. E poi prima di dormire faccio una 20 di minuti di mobilità articolare. Mi metto sul tappetino mentre mia moglie fa addormentare il bambino e faccio tutti esercizi molto dolci, un po' yoga, un po' pilates, chiamiamoli così, per sciogliere la muscolatura. Questa è la mia giornata da recluso. E quanto tempo ti alleni ogni giorno? Quasi 2 ore, però diciamo che una persona normale, diciamo quindi un mediamente sedentario, anche non un atleta, mezz'ora al giorno, secondo le linee guida della OMS, sono più che sufficienti, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per stare in forma. E ora con questa quarantena ha anche inaugurato una piccola rubrica quotidiana su Facebook con consigli di allenamento. Dato che ci siamo accorti che moltissime persone hanno tanto tempo ma non hanno idea di cosa fare, abbiamo deciso di lanciare questa rubrica quotidiana. Sono 10 minuti in diretta su Facebook, sul canale bikeitalia.it, quindi sulla nostra pagina Facebook, dove noi andiamo a raccontare un allenamento. E perché è importante farlo, quanto tempo, e poi farò vedere delle piccole schede, quindi degli spunti, e poi uno se lo può modificare e gestire come meglio crede, trovare 10 minuti al giorno per poterli fare. Bene, grazie Omar, buon allenamento, alla prossima. Grazie a te Alessandra e un saluto a tutti gli ascoltatori. E allora continuate a pedalare solo con la mente, con il cuore, con i ricordi o con la poesia, oppure con le gambe sui rulli a corpo libero, oppure saltando sulla corda. La bici, quella vera, per ora aspetta, ma insomma speriamo di poterla raggiungere presto. Ciao e buona domenica.